reningolando. Sono la canzone, goppa alla rivolta, e una femmina d'amore, spavolta, disinvolta. Cuna mano sona, cullata da una curtiella, guarda sta terra, o lupo mucuriella. Cuna mano sona, cullata da una curtiella, guarda sta terra, o lupo mucuriella. Lo lupo era faina, con una mano e una chitarra, cullata carabina. Suona la canzone, lo lupo era civetta, rosa voglia, lo burbone, lo fregante era scoppetta. Suona la canzone, tra lo culto e lo calore, ogni notte suona e spatto, spatto e suona, fa rumore. Suona la canzone, tra lo culto e lo calore, ogni notte suona e spatto, spatto e suona, fa rumore. O cantero lupo, casa magno, cucuriella.